Gong. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. A Capodanno manca poco ed io non so cosa devo fare. Tutti i locali sono pieni e poi io e i miei amici siamo ancora in alto mare. Ora è il momento in cui bisogna agire. Chiamo il mio amico e chiedo di aiutarmi a capire. Lui mi dice dai poi si vedrà. Ma manca veramente poco, poco, poco ancora. Su WhatsApp ho fatto un gruppo degli amici per scambiarci idee su cosa si può fare. Tanto lo so che alla fine un po' di tutto poi si parlerà, tranne di ciò che si farà. Quasi 30 anni ma non è cambiato niente. Si fa tutto come sempre all'ultimo istante. Riscrivi in chat su WhatsApp a tutti. Mentre la notte di Capodanno della Rai avrà probabilmente Tiziano Ferro, noi abbiamo l'immarcescibile e fantastico Daniele Brogna, che ha messo su YouTube questa sua bellissima Potremmo organizzarci. Potremmo organizzare è la canzone che descrive la tragedia dei giorni che precedono il Capodanno. Che facciamo a Capodanno? C'è gente che ci pensa già praticamente dai primi giorni di settembre, torna dalle vacanze, dice ma pensiamo a organizzare il Capodanno, e cominciano a cercare i viaggi, i luoghi, le circostanze, a prenotare, a cercare gli amici. C'è gente che si ripiega sui soliti Capodanni familiari, tristissimi Capodanni, con Rai 1 accesa, con Carlo Conti, col 2, meno 3, meno 4, meno 5, e o il contrario, meno 6, meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, boom. Poi tutti ballano, tutti gli ospiti, con le ballerine, grande festa di piazza, comincia a tirare i bottarelli, li tireranno anche a Roma, avete visto? Dopo la nostra trasmissione il TAR ha decretato libero botto e già girano le foto struggenti su Facebook. No al botto, sì al biscotto, col cagnolino ti guarda con gli occhi di quello che sta per morire di crepacuore. Detto questo, che senso diamo a questa giornata di Melog? Beh, a grande richiesta, come molti mi hanno chiesto, regalerò anche oggi i libri infami. Ho finito i libri di Veltroni, mi dispiace, li abbiamo dati tutti, potrei darli due volte facendo un'operazione scellerata di overbooking, ma non lo farò mai, capito? Non darò due volte lo stesso libro infame, ho dei libri altrettanto belli, se non più unici, che io regalerò oggi con grande piacere agli ascoltatori che sapranno meglio descrivermi un Capodanno infame. Capodanno infame fatto o Capodanno infame da fare? Guardate che non è molto difficile, è persino più facile del Natale. Il Natale, in fondo, l'infamità del Natale si appalesa, trapela, trasuda dal fatto che si debba stare a un tavolo forzatamente con parenti che si odiano. Quindi l'infamità viene dall'escamotage di rendere il più possibile indimenticabile quel giorno per gli odiati parenti. Quindi sono venuti fuori tutti i fantastici stratagemma per rovinare la vita alle persone che noi odiamo, disprezziamo, detestiamo, non vogliamo vedere, con le quali siamo costretti comunque a condividere un momento di finta letizia. Con il Capodanno mi rendo conto che è un po' più difficile, ma credetemi, la posta vale. Il libro qui accanto piange il cuore persino a me di separarmene. Sono libri che potrei portarmi a casa, rivendere a un mercatino, nessuno se ne accorgerebbe. Sono libri che mi mandano le case editrici, speranzose, con i loro migliori autori, immaginando e pensando ancora se è una persona che possa fare recensioni ai loro libri. In realtà io li spaccio come risulta, come materia infame. E normalmente gli ascoltatori sono molto felici di riceverne. Allora 800 24 00 24, da questo momento tutti coloro che vorranno un libro infame da potersi portare sotto braccio, non dico il giorno di Capodanno, ma per la Befana vi arriverà quasi di sicuro, comincino a pensare, immaginare, descrivere, anche inventare, non mi importa, la forma più infame per organizzare e passare una fine dell'anno. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Io per la tombola ho già pronti gli spiccioli, per mezzanotte ho anche i mini ciccioli, e ancora le domande sono sempre le stesse. Chi lo sa dove che andremo, cosa faremo? Comunque io quest'anno non farò l'errore, non spero più che il nuovo anno sia migliore. Ricordi che lo sperai al 2016, invece è stato uno dei più sudici. Su WhatsApp ho fatto un gruppo degli amici per scambiarci idee su cosa si può fare. Tanto lo so che alla fine un po' di tutto poi si parlerà, tranne di ciò che si farà. 800 24 00 24, stanno già arrivando corpose le richieste, gli aneliti, le speranze, i postulanti dei libri infami. C'è anche chi mi scrive: Nicoletti, sei una mente splendida, meravigliosa, ne esageriamo, ma basta con questi libri infami, perché io diffondo cultura e questo è come il bonus cultura che hanno dato ai diciottenni, 500 euro poi se li vanno pare, non so se Leggenda Metropolitana, ovvero a rivendere in libreria 200 euro. Vuoi comprare 500 euro di libri? Dammi 200 euro, qua c'ho il buono, te li compro io. Detto questo, diffondiamo cultura, diffondiamo anche idea che il Capodanno possa essere qualcosa di diverso dallo spumantino stappato davanti alla finestra, dal trick track buttato dal balconcino, dalla cenetta di Capodanno mai stanca, asfittica, perché soltanto 5 giorni prima già le donne di casa hanno preparato quella di Natale. Nel locale ancora peggio, sembra di vedere Fantozzi con l'orchestra, se ne va mezz'ora prima perché deve farsi anche un'altra serata. Quindi quali sono le vostre alternative? Raccontateci un Capodanno infame del passato o anche quello che farete domani. E io, se lo riterrò giusto, vi premierò con un libro infame. Comincio con Stefano. Stefano, buongiorno. Pronto. Nicoletti, ciao. Allora, cosa farai di infame domani? Quindi già hai programmato se per domani. Allora, qua siamo sposati da un po' di anni. Quanti anni? Più 10, diciamo 10, ma più di 15, 16 che stiamo insieme. Quindi l'attività sessuale è calata sotto i livelli di guardia. Ah beh, questo parla per te, non lo sai di tua moglie, come puoi dirlo? Sì, no, però non lo sai, tutto, nessuno lo sa del partner. Lo immagini. Dopo aver provato tutto. Tutto che hai provato. Capodanno in famiglia, Capodanno in casa, Capodanno al rifugio in montagna, in mezzo alle case. Ai locali. Esatto, adesso quest'anno club scambisti. Andate a un club scambisti. Sperando che si ravvivi un po' la situazione. Vabbè, siamo arrivati. Sai che ravvivamento? Ti tromba la moglie e tu guardi, questa alla fine. Speri un po' che. Ma insomma, è sempre meglio che in casa andare a letto le 11. Vabbè, allora tu hai già organizzato questa serata? No, non vedremo, insomma. Io non so bene le abitudini, ma essendo ormai il 30, secondo me i locali sono già prenotati. Chi doveva farlo in quella maniera già prenotato. Più gente c'è, più ci si diverte, no? Sì, rischi di trovare i posti in piedi. Cioè, uno strapuntino, ci accontenteremo di quello che si trova. Sì, ma nello strapuntino ti becchi una coppia di umarelle tutto al più, capito? Logicamente, ormai si va un cioè, proprio prendi gli scorti. Ma tua moglie è d'accordo su questa roba, gliel'hai detto? Proviamo. Vediamo. Ah, ma nemmeno gliel'hai detto? Quindi la tua fantasia. Ma ormai siamo a livello di Fantozzi che le sogna le cose basta. Vabbè, tu adesso hai detto questa cosa che vuoi il libro infame, te lo do comunque perché il patetico tentativo di raccontare una trasgressione che ormai no, ma nemmeno i geometri del catasto Fantozzi sognava, ma poi alla fine. Vabbè, ma scusa, ma se fa un sogno di trasgressione, perché devi pensare di andare in un club scambisti che immagino siano delle cose più tristi, la puzza dei piedi degli altri, questa gente assatanata, tutti ti guardano, ti tocchicciano. Qual è il divertimento? Solo per capire. L'hai visto su internet? L'abbiamo visto nei film, abbiamo visto. Poi la realtà. Ma te ti attizzerebbe l'idea di vedere tua moglie impegnata con altre persone? No, in effetti. Molto triste. Poi la vedi lì e lei passa attraverso. Magari lei si diverte. Però, Lei è sicuro? Da come ti sento giù di corda, qualcosa di meglio lo trova, sicuro. Ma tu devi immaginare che lì fa l'esperienza. Fai elefantiache esperienze, tu ci rimani un po' dopo male. Comunque va bene, caro, che devo dirti? Ti do un consiglio che è racchiuso nel titolo di questo libro che ti regalo. Ma ti regalo, sai per cosa? Tu non ci andrai a club scambisti, tu già hai pronto, diciamo, secondo me, la tombola in parrocchia con tua moglie. Comunque va detto questo. Ma sì, lo so, figurati. Ci hai provato, però va bene lo stesso. Un libro fantastico, l'editore Rizzoli, è forse il libro più costoso che ho in mano, costa 18 euro, quindi ti porti un bel libro. Rifletti bene sul titolo, che è sempre meglio seguire questa strada che seguire quella della disperazione. Il titolo è Con le mie mani. È il titolo. Va bene. L'autore è Giorgio Petrosian, che è un pugile. Ha scritto questo libro, Tutte le battaglie di un guerriero per la vita. Tu ci hai provato, hai detto questa roba, magari tua moglie ti ha sentito alla radio, mo torni a casa, la trovi col mattarello e ti dice: mo te lo do io, club degli scambisti. Ti fa sentire. Ma lo facciamo in casa, in noi due. Sì, e con chi ti scambi? Col canarino? Con chi ti scambi dentro casa? No, facciamo finta, ci travestiamo, sai, quelle cose un po'. si gioca alla Ah, tu bussi alla porta, signora, sono un venditore di aspirapolvere, mi apre? Esatto. Lei mi trova senza mio marito. Casualmente sono messa qui, reggi calze, che sto pulendo con il piumino la libreria alta e sale sulla scaletta, questo immagino. Esatto. Sì, ma un immaginario anni 70, scusa, è Pierino e non so, è Edwige Fenech. San Pieri, quindi sono Pieri. Ma pigliati, guarda, lo trovi gratis su YouTube, un film di Alvaro Vitali, troverai tutte le tue fantasie. Ci guadagni in malattie, perché poi ti pigli le piattole al club degli scambisti, poi devi andare dal dottore. Beh, certo, è chiaro, chi va lì a vita promiscua. Magari il dottore lo trovi lì nel club. Ma non va, figurati, ma chi ci va più in quel club lì, dai, ci vanno i poveracci, lo guardano in Inter, poi ci vanno, roba vecchia, sempre stata roba vecchia. Ciao Stefano, divertiti. Bruno, buongiorno. Pronto? Sì, eccomi. Buongiorno, allora io volevo raccontare il mio fine d'anno di qualche anno fa, e siccome la suocera abita qui sotto di me e mia moglie non c'era, non ricordo perché, ho accettato l'invito e sono andato, è venuta anche un'altra signora di sopra. Cioè lei ha deciso di passare un capodanno con la suocera? No, non avevo di meglio. E di meglio, scusi, qualunque cosa è di meglio, non aveva di meglio, da solo già è di meglio. Sì, l'alternativa era con un clochard su una panchina è meglio. Ho capito, ma insomma è andata così, alla fine sono andato. È andato. Questa signora ha cominciato, a un certo punto ha cominciato a parlare del condominio. Del condominio. No, ma lei che si aspettava? Ma che si aspettava, scusi? Che si aspettava? Andava al capodanno la suocera con la sua amica, sono messo a parlare del condominio. Quindi è stato tristissimo. Sì, tristissimo. Ma lei con chi era? Lei con chi era? Io ero solo, perché mia moglie, non ricordo perché, non c'erano. Indovina, dopo ricordo perché, adesso lo sa perché. No, cioè... No, perché? Perché non vuole andarsi a rompere le palle a casa della madre che parlava con l'amica del condominio. Può essere. Quindi ha passato un tristissimo capodanno con due vecchi che parlano del condominio. Parlare del condominio al 31 di sì, a me aspettando mezzanotte. Beh, lei cosa si aspetta? Eravate in tre, soltanto in tre? Mi pare, sì, in tre. Cioè l'altro ospite era talmente trasparente, inesistente, che non aveva potuto manco vederlo. Vabbè, senta, finora abbiamo avuto due esempi molto tristi. Ma si è mangiato almeno? Ah sì sì, la suocera era brava a cucinare, abbiamo mangiato secondo il canone previsto. Si è mangiato bene, però in cambio si è rotto le palle. Però... è una cosa che ancora mi ricordo. Era meglio se faceva un panino e stava a casa. Comunque glielo regalo. Gli regalo un libro. Finora guardate, non buttatemi tutti i capodanni infame sulla tristezza, sennò mi deprimo anch'io dovrò pensare domani che forse andrò, non lo so, da qualche parte. Io a casa rimango, una bottiglia, mezzanotte la stappo, mi bevo una bottiglia, basta, guardo la televisione. Il capodanno dell'alcolista anonimo, tipico. Guarda, da un libro che forse dà qualche ispirazione. Le sfide della nuova famiglia, di Federico Tognoni. Gli adolescenti, l'alcol e le droghe. Interessante. Se lo legga, magari potrà passare un buon capodanno. In bocca al lupo, divertimento. Andrea? Sì, pronto? Ecco, Andrea, vediamo se mi ritira un po' su. Finora ho chiesto altronde io, capodanno infami devono deprimere, è logico. Vediamo il suo capodanno, come sarà. Sì, io penso di andare sul Monte Cimone a vedere le stelle. A vedere le stelle sul Cimone? Sì. Farà freddino, è la montagna più alta che c'è sull'Appennino modenese. E da solo? Domani dovrebbe essere una bella giornata e quindi dovrebbe... Ma domani cos'è? Luna nuova? No, è una buona... Non so se è luna nuova, però dovrebbero vedere le stelle. Di solito ci si va d'estate a vedere le stelle cadenti. Non è proprio la stessa cosa a darci però il 31 dicembre che andarci l'estate sul Cimone. Esatto. Rischi a trovare un po' di bufera, di soffio. No, bufera no, se è bello no, ma sarà freddo. È freddo, sì, ma nevica a quell'altezza? Ma la neve c'è, un po'. Ma che fa, sporta una tenda, come fa a pernottare lì? No, faccio una passeggiata e poi dopo vado a vedere le stelle a mezzanotte là e poi magari torno indietro. E torna a piedi, di notte? Sì, fino alla macchina. La macchina metteremo a un rifugio lì sotto. Quindi lei parcheggia la macchina in una piazzola lungo la strada? Scende un attimo con la bottiglietta in mano, si affaccia nel belvedere, stappa la bottiglia. Sì. Ma con chi va? Ah, vado con mia moglie e un'amica. Ma una cosa tre? L'amica sola? L'amica sola, sì, è da anni che è sola. Però è una persona tristissima, sai? Nessuno, allora magari lo trova lì. Lo Yeti, chi vuoi trova sul Cimone? Lo Yeti, facile. Però scusi, magari. Io non voglio dire... Se le do un consiglio, si porta anche non si accolli l'amica zitella triste, perché vi avvelena la serata, non lo so, ve la ravviva tanto e non ho capito bene, ma non voglio pensare. No, ma siamo abituati. Abbiamo mica ve lo prescrive il medico che sta con quella lì. È vero, anche questo. E perché non trova nessuno, l'amica? Perché ha provato tanto, ma non ha mai trovato nessuno. Ma ha problemi, non so, di flatulenza, di alitosi? Qual è il problema? Perché? No, non credo, ecco, almeno... Che ne sa, magari è quello il problema. Ha un caratteraccio. E perché se la porta dietro? No, questo lo capire, perché il 31 sta con sua moglie, un'occasione felice, si porta dietro sta biocco, la vuole buttare giù dalla montagna, se ne vuole liberare. Magari, ma no, perché? Allora, ho capito che è una persona non gradevole, ma perché ve la portate dietro? Ma questo mi interessa. No, a volte è gradevole, dipende come è girata, dipende dalla luna. Allora, perché non deve rischiare un 50% di probabilità che ci sia questa qua? Ma solo per capire, sono curioso, veramente. È un'amica di sua moglie, tua poverina, portiamo, cioè è sfigata, se no sta male. Ma sì, dai, altrimenti cosa fa a casa da sola? Ma sono fatti suoi. Dategli una bottiglia di cognac e lasciatela a casa, che ne so, no? Potrebbe essere un'idea, però. Ma io voglio dare le idee cattive, scusate, vabbè, se la porti dietro, buon Dio. Ma pensi che tristezza, riportarla a casa. Questa già dormirà, sbufferà, direi non gli va bene niente, c'era fame, c'era freddo, dovrà fare la pipì ogni minuto, dovete fermarvi, e dentro la macchina vorrà fumare, e poi dirà che non si vedono le stelle, che noia, poi dirà il vino è cattivo. Per fortuna non fuma. Non fuma? Ma... No, non fuma. Vabbè, le do un libro, le do un bel libro, visto che lei è appassionato di montagna, è un libro dedicato proprio alla montagna, di Marco Albino Ferrari, Il sentiero degli eroi, Dolomiti 1944, una storia di resistenza, storia di guerra, seconda guerra mondiale sulle Dolomiti, uno esploratore inglese, un capo partigiano, la storia dell'impresa eccezionale, due fratelli in armi, fuori dai comuni, solo in apparenza lontani. Cioè, si vede uno col paracadute. Col paracadute sulle Dolomiti, bocca al lupo, ci ripensi sull'amica, le consiglio. Grazie. Allora, Paolo, buongiorno Paolo. Sì, c'ho buongiorno, un minuto. Telegraficamente il mio capodanno è... La sento allegro e entusiasta, però, quindi mi immagino che sarà una botta di vita, dica. Sicuramente quello di quest'anno sarà migliore di quello che ho passato qualche anno fa. Con chi l'ha passato? Ero in un paesino del vicino Vercelli. E già zona triste in sé, con le risaie, zona triste, un po' le mondine, queste cose, non lo so, non ci sono più dagli anni 40. Comunque, vabbè, allora, nebbia? La nebbia che ci invade così. Aspetta, fermo un attimo Paolo, mi scrive uno, lei è uno stronzo, perché una persona single non è necessariamente un peso da non portarsi dietro a Capodanno. Ma io ho passato anch'io da solo il Natale, ho stato tanto bene, perché? Perché non mandava ad andare in montagna, non mandava di far niente. Una persona single può essere amabile e divertente, ma in questo caso è la tipica amica mattone, che se la portano dietro, quindi uno è un mattone, si può dire che esistono le persone mattone. Molte persone stanno sole perché sono dei mattoni che nessuno le sopporta. Poi al di là siano sposate, fidanzate o abbiano vite brillanti. Ho intuito che è una amica mattone, quella che ti porti dietro ti avvelena l'aria. Ci sono persone che ti avvelenano l'aria soltanto quando respirano. Che ci posso fare? Se ne faccio una ragione. Avanti Paolo, cos'è stato il triste Capodanno passato? Sì, ecco, in casa di questo amico, che è l'unica persona che conoscevo su 10 persone, e praticamente intorno alla tavola eravamo, diciamo, tutti riuniti. Si mangiava solo riso? Sì, non ricordo neanche quello che abbiamo mangiato, un po' così, queste cose, un po' spizzichini, un po' di pietanze, un po' quelli. È una scusa per rimettervi gli avanzi a tavola e darvi la roba di Natale avanzata. Sì, cioè. Poi c'erano dei vulovan, delle cose, l'insalata russa, delle cose un po'... L'insalata russa poi ovviamente è raccogliticcio del lavello, è tutto messo a pezzi che non si capisce che c'è dentro. Vabbè, poi? Esattamente. E a un certo punto il padrone di casa, nonché il mio unico conoscente, io già ero intorno a questa tavolata che non conoscevo nessuno. Fuori completamente, quindi... nessuno le rivolgeva la parola poi? Sì, si parlava due a due, a tre a tre. Nessuno se la calcolava, va bene, poi? E a un certo punto il padrone di casa se ne esce con questa splendida idea originalissima di dare a ognuno un solitario, un rompicapo. Quindi invece di creare magari un... così un escamotage di gruppo per cercare di unire, ho passato questo mio capodanno di M a passare a fare il rompicapo. Ma praticamente, ma che si vinceva poi? Che si vinceva? No, era solo fino a se stesso per passare tempo. Cioè, strappa una pagina a settimana enigmistica, ne dà ognuno a ognuno e dice adesso divertitevi, questa è la sintesi. Sì, ma erano anche i giochi quelli proprio con gli oggettini, adesso non ricordo, da sistemare, da fare incastro, da sistemare. Cioè i test che usano per vedere se uno è matto, queste cose qua. Sì, esattamente. Vabbè, cioè, è rimasto segnato a distanza di anni, la sento come mesta la voce. No, infatti infatti, perché ricordando questo Capodanno sicuramente. E quindi è andato via? E sono andato via a mezzanotte e un quarto, più o meno, dicendo che avevo forti dolori di stomaco. Ci ha appena fatto il brindisi, ha simulato la diarrea, è andato via. Sì. Vabbè, le do un libro, è forse il miglior pezzo di tutto lo stock, ma glielo do volentieri. Non è lo stesso che ho dato l'altra settimana, ne avevamo due copie perché ci hanno mandato due copie sapendo che apprezzavamo lo stile e l'autore. Di Giovanni Floris, Quella notte sono io, il romanzo Giovanni Floris, imperdibile, della Rizzoli. Hanno mai provato a non guardare indietro, ma la verità è più forte del tempo. Questo capirà cosa c'è dietro queste parole quando le arriverà questo libro e potrà passare un'ottima Befana. Alla prossima, ci sentiamo tra un istante, dopo la pubblicità. Melog, Cronache Meridiane. A Capodanno manca poco ed io non so cosa devo fare. Tutti i locali sono pieni e poi io e i miei amici siamo ancora in alto mare. Ora è il momento in cui bisogna agire. Chiamo il mio amico e chiedo di aiutarmi a capire. Lui mi dice dai poi si vedrà. Ma manca veramente poco, poco, poco ancora. Su WhatsApp ho fatto un gruppo degli amici per scambiarci idee su cosa si può fare. Tanto lo so che alla fine un po' di tutto poi si parlerà, tranne di ciò che si farà. Quasi 30 anni ma non è cambiato niente. Si fa tutto come sempre all'ultimo istante. Riscrivi in chat su WhatsApp a tutti per favore. Vi vorrei ricordare. L'immenso Daniele Brogna racconta come si deve organizzare un triste Capodanno. Gli ascoltatori di Melog stanno raccontando i più tristi dei loro Capodanni. Devo dire che la cifra media è veramente da tagliarsi le vene di quello che mi sta arrivando, ma è quello che volevo, perché quando avete sentito le statistiche dette nel radiogiornale che mi ha preceduto, tanti rimarranno a casa, tanti andranno ai locali, tanti faranno altre scelte. Ecco, questa è la trasmissione dedicata alle altre scelte. Le altre scelte sono le scelte disperate, sono le scelte di quelli che devono adattarsi o che non si rendono conto in che grande problema si vanno a infilare. Come ad esempio Nunzio. Nunzio, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Catania. Caro, è ogni anno che provo a vincere questo libro, questo è il primo anno che competo. Potrà essere suo questa volta, se sarà abbastanza allora, infame. Diciamo la mia infamata. C'è stata più una infamata. Io ero alle medie circa, forse ero all'ultimo anno, in terza media, dopo un Capodanno fatto coi parenti, e forse è stato l'ultimo fatto coi parenti, con questi parenti, gli zii di primo grado, scacciate e cose varie, al ritorno a casa a Mascalucia in provincia di Catania, io e mio fratello ce le siamo dati di santa ragione per la strada. Sarà stato mezzanotte e mezzo, l'una, ma ci siamo ammazzati. La ragione qual era? Ma lui doveva uscire, io non ricordo se dovevo uscire, ma già c'erano degli screzzi che ci portavamo via da Natale. Beh, i fratelli si menano sempre fra di loro in classe. Si menano. No, io e mio fratello, che abbiamo 17 mesi di differenza, si chiama Antonio, ci siamo sempre menati. Però ma anche noi ci siamo menati fino a 20 anni. Sempre, però sai, fa bene, fa molto bene, perché ti fa crescere e ti rinsalda i legami che ora sono fortissimi. Ma ci siamo massacrati. Per la strada c'era mia mamma che era, io ricordo che ci guardava, era scioccata. Beh, bello spettacolino, l'anno come di solito dice, lo fai per il primo dell'anno, lo fai per tutto l'anno. La gente faceva le cose belle, dice sì, lo faccio a Capodanno, lo faccio per tutto l'anno. Qui siete menati a Capodanno, cioè tutto l'anno lo passeremo a darci cazzotti. Lui era già al ginnasio, io ero alle medie, lui stava uscendo, io non, quella sera non uscivo. Poi ricordo che me ne sono andato a dormire in campagna a piedi da solo, in una macchina che avevamo in campagna semiabbandonata. Pensa, un bambino da solo nella campagna abbandonata la notte di Capodanno. In campagna una volta, vabbè, una volta, stiamo parlando di 10 anni fa, di quando, 15 anni fa. Vabbè, non è che era più vicina la campagna alla città, oggi la città ha invaso la campagna. E quindi in quella macchina, al freddo e al gelo, un povero bambino ammaccato dai colpi del fratello maggiore, cosa pensava? Cosa pensavo? Beh, ero molto, molto incazzato, mi ha fatto riflettere tanto, ma soprattutto ricordo che è stato, che i motivi erano veramente stupidi. Ma sempre, non fa botte sempre per futili motivi, per le cose serie. Certo, sono sempre futili, però sai, sono quelle cose che ti restano talmente impresse. Io ancora ricordo il vestito che avevo, il maglione che ho strappato, la camicia di mio fratello con la quale dovevo uscire, che io l'ho strappata, il bollone che poi mi sono trovato il giorno dopo, l'ematoma sul braccio, la guancia un po' gonfia, sono cose che ti fanno riflettere. Va bene, io penso che, guardi, ho trovato un libro, se mi ha fatto proprio per lei. Lei di dove è? In siciliano di dove? Io sono di Catania, nato a Catania, vivo a Mascalucia, che è un paesino... Conosce Giovanni Caccamo? Certo. È di Modica? Certo. Ah, vede, allora le do il libro di Giovanni Caccamo, Dialogo con mia madre, Rizzoli. Penso che le farà piacere. È proprio un... Mi farà molto piacere, soprattutto mi ha fatto piacere intervenire in questo danno. Va bene, diciamo che è una tale triste in quanto indelebile ferita della propria fanciullezza che non si porta dietro tutta la vita e lì rimarrà sempre. Quando lei chiuderà gli occhi per l'ultima volta, vedrà ancora quella notte di lei solo nella macchina, pieno delle botte, della mano fratricida, e ancora dirà, ma perché mi è successo ma questa cosa? Ma guarda che le ho menate pure io, Vabbè, lui era più grande, beh, l'ha prese più perché quello era più grande, chiaro, la menata sì, di sì, però lui, forse, io ricordo che io menavo più forte. Lei era più cattivo, diciamo, vabbè. Io ero più perfido, lui era molto più... Vabbè, si rabbonisca con Caccamo, che è un buonaccione. Claudio, buongiorno. Claudio. Buongiorno Gianluca e buon anno. Sono Claudio, vivo in una zona dei Castelli Romani, che una volta vicino a un posto dove, che tu una volta in una trasmissione hai definito un non luogo. Che posto è? Che posto è? Dimmelo. Non Pavona. Pavona. Ah, Pavona, certo. Sì, sì, mi ricordo. È definito un luogo. E io sono completamente d'accordo con te, ma non vivo a Pavona, abito lì vicino. Comunque, mi hai fatto venire in mente a proposito... Mi ricordi perché Pavona? Nella testa Pavona, cosa c'era Pavona? Perché Pavona ne parli? Era un nulla. Tu l'hai in una trasmissione tua... sembra Golem. Sì, Golem, certo, sì. Esatto. L'avevi citato come esempio di non luogo perché è una specie di cittadina cresciuta intorno a una stazioncina di una secondaria di una linea dei Castelli. Ah, ecco, una sorta di chiaro, una sorta di tumore cresciuto attorno a una stazione ferroviaria, che già è un non luogo. Quindi diciamo la cellula che ha fatto germinare Pavone è una stazione che è il non luogo per eccellenza e ha germinato il non luogo. Mi ricordo, esatto. Piacque molto quella cosa. Allora, dimmi però un capodanno. Già, se sì. Tu stai vicino a Pavona è facile avere capodanno infami, quindi basta riscrivere un classico tuo capodanno e quindi ci siamo. No, non è un classico mio capodanno, però mi hai fatto venire in mente un capodanno veramente infame che mi è capitato una decina d'anni fa con il mio gruppo di amici. Siamo una dozzina con i quali, diciamo, ogni qualche anno facciamo per Capodanno un viaggetto di 3-4 giorni. Cioè andate a Frascati, Marino, fatevi allargate. No, andiamo un pochettino più lontano. Tipo? Mettiamola così. Dove andate? Per esempio, in questo caso andammo a Sorrento. Beh, in questo caso decidemmo di andare a Sorrento. Beh, un bel viaggio, organizzato. Un viaggetto, una cosa carina. Erano i primi anni che, diciamo, attraverso internet... I primi anni che si poteva varcare la frontiera dei Castelli. No, che si poteva cercare cose su internet. Ah, okay. Con l'auspicio di... Avete il mondo a disposizione e siete arrivati a Sorrento. Bene. Benissimo, benissimo. E, abbiamo trovato un locale messo sulla montagna sopra Sorrento che proponeva un sontuoso menù di cucina napoletana e mare. Cioè, siete proprio andati a cercare, quindi siete abboccato subito. Abbiamo abboccato con alloggio a un prezzo ragionevole. Stracciato. Un po' diffidente comunque telefono a questi qua mi confermano tutto e chiedono un modestissimo anticipo, diciamo, per questa cosa che gli mandiamo via maglia postale. Arriviamo lì e ci ritroviamo in un posto sperduto, ma questo era previsto, sulla montagna sopra Sorrento. Ma cos'era, tipo un capannone, una stalla, cos'era il posto? Guarda, un ambiente che qualcuno potrebbe definire molto caratteristico, no? Sai queste cose? C'è presente la pubblicità di Panariello e Ciro ai Caraibi? Ecco, l'equivalente di Ciro ai Caraibi messo sopra Sorrento. Cioè un deposito di trattori, ecco, una cosa del genere. No, era un ristorante trattoria messo sulla strada, in un bosco, molto Vabbè. Rustico. Ma quindi non era male, Poteva essere anche non male. Arriviamo lì e intanto la prima sorpresa, le camere non c'erano lì, ma dice guarda, vi dobbiamo sistemare, noi eravamo 12, vi dobbiamo sistemare in un posto a 4-5 chilometri perché qui le camere sono già tutte... È già prima fregatura. E vabbè, allora una guida locale sale in macchina con noi e riscendiamo tutte curve verso Sorrento, 4-5 chilometri, e entriamo in un villaggio vacanze estivo abbandonato perché era dicembre, quindi chiuso. Con i materassini, no? Gli ombrelloni, tutto. No, quelli non ce l'avevano tolti, però ci portano in questi piccoli appartamentini, insomma. Caldissimi, immagino, perché il riscaldamento non c'è nei villaggi estivi. Bravo. Arriviamo, ci danno ste stanze. E noi la prima cosa che diciamo: ma il riscaldamento? Dice: guarda, sì, lo stiamo accendendo. Dico: vabbè, lo stiamo accendendo, era un po' freddino. Cominciamo a sistemarci perché poi la sera ci sarebbe stato un cenone, era tipo il primo pomeriggio, sì. Dopo il viaggio ci stringi il racconto perché sei un po' prolisso. Benissimo, morale della favola, il riscaldamento e l'acqua calda non funzionano. Chiaro, dormito di merda l'abbiamo capito. E la festa com'è stata? Bene, andiamo, dico vabbè, senti, domani ce ne ripartiamo, speriamo che la cena sia migliore del soggiorno. La cena fu una cosa di questo tipo. A un certo punto, intanto naturalmente i piatti non corrispondevano a quelli che erano... Ma poi c'eravate solo voi, immagino, e pochi altri... No, c'era un sacco di gente e c'era anche gente che veniva. Noi venivamo dai dintorni di Roma, ma c'era per esempio una famiglia, moglie e marito con un bambino piccolo, che venivano da Bologna. Cioè internet aveva fatto vittime da tutta Italia. Beh, avete mangiato schifosamente. Ma peggio, perché a un certo punto, poco oltre l'inizio del pranzo, poi dopo abbiamo scoperto, avevano finito la bombola del gas per la cucina. Che nemmeno potevano cucinare. Per cui praticamente era tutta roba fredda, insomma. Una cosa veramente... Poi ci doveva essere, c'era la discoteca, dico vabbè, andiamo a vedere se... Era un seminterrato, dico andiamo a vedere se si riesce a fare... Veniva un rumore di musica. Saltavate e vi scaldavate un po'. Esattamente, allora dico vabbè, vado a dare un'occhiata, la cena è andata come è andata, chi se ne frega, domani ce ne andiamo via, poi discuteremo col padrone, gli avevamo dato solo un modesto acconto, per carità, andiamo a vedere giù in discoteca se si riesce a fare qualcosa, scendiamo giù in questo specie di garage grezzo dove c'era in un box un DJ pazzo, un ragazzo che faceva un DJ pazzo che sparava slogan, lanciava musica. Nel deserto c'erano tre signore con la pelliccia che facevano un ballo di gruppo. L'Aligalli, classico Aligalli. Vabbè, dai, è andata bene. Peggio poteva andarti soltanto con me o amico Charlie Brown. Quindi le tre signore in pelliccia c'erano l'Aligalli, una tristezza assoluta da impiccarsi al primo albero. Ti do il libro di Marco D'Ambrogio, il mio giro in moto del mondo, vivere d'avventura. L'avventura tu l'hai vissuta, spero che ne abbia altre più consistenti. Ci sentiamo tra un istante. Melog, cronache meridiane. Io per la tombola ho già pronti gli spiccioli, per mezzanotte ho anche i mini ciccioli, e ancora le domande sono sempre le stesse. Chi lo sa dove che andremo, cosa faremo, comunque io quest'anno non farò l'errore. Non spero... Vado velocissimo, ci sono veramente tante telefonate, le voglio fare tutte. Alex, buongiorno. Buongiorno. Vada sintetico il suo capodanno, forse avrà un libro infame. Io vado sintetico, 13 anni fa, terzo superiore, mi organizzo con il mio compagno di classe per l'ultimo dell'anno, cena a casa in famiglia della tradizione, ci organizziamo per trovarci in piazza in centro a Reggio Emilia alle 11:30 per il brindisi e contro la rovescia, facciamo il brindisi, dopo discoteca, ci mettiamo mezz'ora in macchina in mezzo alla nebbia, arriviamo là, scopriamo che la discoteca si è trasferita, adesso è un locale da ballo dove suonano orchestre di ballo liscio. Vabbè, poteva essere divertente come alternativa, no? Sì, però non era il nostro obiettivo della serata. Ma che avete fatto a quel punto? Avete ballato liscio o siete andati verso il vostro incerto destino? No, ci cioè siamo andati, abbiamo chiamato un altro nostro amico, ci siamo fatti indicare un locale funzionante, diciamo, mettiamola così, con musica un po' più giovane, siamo andati verso altro destino. Quindi volevate la musica giovane. Vabbè, ti do un libro che veramente potrebbe aiutare molto voi giovani nella ricerca della vostra giusta strada, è di Riccardo Illy, La rana cinese, come l'Italia può tornare a crescere. Fanne tesoro. Ciao. Andrea, buongiorno. Ciao Gianluca, sono Andrea, ho 32 anni. Dunque, Capodanno 2010, primo Capodanno con l'amorosa, finiamo a casa di amici. Il primo Capodanno con la tua fidanzata. Con la mia fidanzata, esatto. Bello, romantico. Bellissimo, bellissimo. Il migliore amico di mia moglie, tutto organizzato. Boh, la casa non è più disponibile. Sempre con questa coppia di amici finiamo. Dovete fare un Capodanno in quattro, dovete fare. No, c'era anche un sacco di altra gente del tutto sconosciuta, vabbè, chi se ne frega, eravamo vicino a casa. Finiamo in collina a casa di questi perfetti sconosciuti in una tavernetta tipo quadrata, 5 metri per 5, eravamo in 20. Si faceva turno per stare seduti. Seduti e in piedi si faceva fatica a stare. Freddo perché fumavano all'interno, quindi porta spalancata. Ma questo come mai riceveva tutta questa gente nella tavernetta di 5 metri? Ma perché insomma erano giovani, insomma, poi alcol, erano comodi a casa. Ma c'era da mangiare? C'era freddo, squallido, triste, patate fritte, le solite cose orrende. Sì, abbastanza, i cracker con lo spunti sopra. Madonna, i cracker con lo spunti sopra orrendo. Aspetta, ci hanno fatto pagare, però non abbiamo bevuto, quindi ci hanno fatto pagare meno, sì. Gentilmente, 10 euro a testa. Sì. Mezzanotte, saliamo in giardino, minchia, c'è anche un giardino, quindi saliamo, c'era una villona immensa con la famiglia del proprietario, insomma, tutta bella allargata, tranquilli, con tanto bello spazio, e stappiamo la bottiglia, ora mezzanotte e 10, eravamo già in macchina, terminiamo la serata io e la mia fidanzata con una mega litigata. Beh, il minimo potrà finire lì il vostro amore. Ma mi spieghi, ma nella tavernetta che erano i figli dei signori, dei padroni di casa? Dei padroni di casa con tutti gli amici che allegramente se la fumavano all'interno, già non c'era riscaldamento. Ah, poi hanno anche aperto, diciamo, i pargoli, nonostante avessero il villone lussuoso, andavano a sgraffignare quattro soldarelli rubati a voi poveri disperati, e vi facevano nella tavernetta il cracker con lo spunti. Bene, ti do un libro interessante, perché è di Sharon Pivetta, Tutta d'un fiato, L'amore infinito, un bellissimo romanzo, ma soprattutto cioè, è una scelta approvata e commentata da Benji e Fede. E non so chi siano, sono due ragazzetti youtuber che vanno molto, quindi roba da giovani, si danno la mano con il bel ciuffo, con le mesh, tutti tatuati, con Fedez nel cuore. Insomma, leggito, vedi un po', peggio di quello che è passato non potrà essere. Andiamo avanti con Francesco. Sì, ciao. Sì, dimmi il tuo Capodanno. Ma guarda, niente, allora subito dopo la caduta della cortina di ferro, io e i miei amici, nella nostra prima vita, insomma, 91-92, giù di lì, abbiamo deciso di andare a fare l'ultimo dell'anno, la settimana bianca, a Poiana Brașov, sui Carpazi, in Romania. Sì, a cercare le donne come Verdone, una cosa del genere. Ma sì, dai, sono 24-25 anni. Insomma, è uno che va a fare a Bucarest. Cioè. Esatto, anche perché il budget era quello. Che avevate portato dietro? Le calze e i collan, queste cose qua? No, eravamo stati d'estate a Mamaia, ci avevamo parlato bene delle montagne, dei Carpazi, insomma, la settimana bianca l'avevamo organizzata lì. Solo che io, per motivi miei di lavoro, insomma, non potevo partire assieme a loro e li avrei raggiunti proprio all'ultimo, al 31. Sta di fatto che la sera prima della partenza, grande tempesta di neve qui su Brescia e Milano, insomma, e quindi tutti i voli ritardati. Il mio volo, che doveva arrivare a Bucarest in mattinata, fondamentalmente è arrivato grosso modo alle 8:30 di sera. Quindi niente, arrivo a Bucarest e fondamentalmente i miei amici erano tutti già in montagna e io avevo un numero di telefono proprio della disperazione, proprio alla Verdone, e ho chiamato, era una ragazza, insomma, conosciuta 4-5 mesi prima, e neanche fanno apposta mi ha risposto, e in qualche maniera ho spiegato che ero arrivato a Bucarest e lei presa penso ospitato. Sì, da pietà, insomma, mi ha ospitato alla festa con tutti i suoi amici di fronte a Casa Populi di Ceaușescu, e in questa palazzo qui del popolo rumeno, dove assieme a altri 30 rumeni ho festeggiato quest'ultimo dell'anno. Io, oltretutto, lei dopo pochi minuti mi ha di fatto lasciato in un angolo, si è unita con gli altri amici che si sono divertiti tantissimo, ogni tanto parlavo. Io, insomma, come dicono in Umbria, tu però sei rimasto come il candibetto, cioè in un angolo. No, è stato anche bello, nel senso che non ho capito niente, ho festeggiato assieme a loro con grandi... Perché poi ragazza, niente, è finita così, è finita. No, beh, la ragazza dopo ha avuto un proseguo, però diciamo cioè, si è carnalmente concesso oppure no? Tanto questo vuol... Ma no, si è carnalmente concesso. E allora però, proseguo, diciamo... niente, proseguo, è andata, è rimasta no, a bocca asciutta. È stato che grazie a Dio mi ha ospitato anche a casa sua, perché se no avevo neanche. Vabbè, ti ha dato vitto alloggio come un cane. Dai, fermati lì. Vuoi scrivere un'autobiografia? Ecco come fare. Placido Seminaria, Battiato di Lampedusa. Placido Seminaria, Battiato di Lampedusa. Vuoi scrivere un'autobiografia? Ecco come fare. Puoi cominciare da questa vicenda tristissima di amori delusi, di bocca asciutta, di rumene, di rumeni e di capodanni passati male. Ce la faccio a farne un altro? Uno, chi? Il 6. Maurizio, veloce. Buongiorno, ciao. Niente, io circa una quindicina anni fa ho un'attività in proprio e proprio di fianco a me c'era un altro che è un addetto allo sport e che anche loro, avendo una bambina anche loro piccola, non hanno prenotato. Siamo praticamente verso le 8 di sera e cosa facciamo? Non facciamo, andiamo via da Parma, andiamo in Liguria e andiamo qui alla Spezia. Chiaramente non avendo prenotato facciamo un po' di giri, ma è tutto praticamente prenotato e troviamo una scritta con un ristorante cinese e abbiamo detto qui sicuramente vedrai che si mangia. Posto c'è, si mangia, no? E l'ha fatto? E siamo a Piovera, siamo scesi dalla macchina, mentre scendiamo dalla macchina c'è un grosso cane lupo che praticamente a randagio che sale sulla macchina perché c'era caldo all'interno e poi non pioveva. Concludi. Un cane lupo. Si conclude che sta andando la sigla, se non fente. E che è successo? Che praticamente ci ha seguito fino dentro al ristorante cinese. Sì. Del ristorante cinese l'abbiamo dovuto lasciare fuori. Sì. Siamo entrati, abbiamo cominciato a mangiare i vari bocconcini primavera qua e là. Sì. Mentre si mangiava, sentiamo nel bar un latrato fortissimo di questo cane. Sì. E che poi si è trasformato in un rantolo. Cioè l'avevano ucciso e noi stavamo mangiando della carne. A cui ti è andato da mangiare il povero cane lupo randagio. Tristissima. Partita la cieca, Ando, storia del reparto paternità. Non so che c'entra, ma peggio di mangiarsi un cane lupo randagio la notte di Capodanno, credo che non ci sia maniera peggiore. Quindi il vostro Capodanno non può essere che migliore rispetto a quello che accade ai nostri ascoltatori. Ci sentiamo l'anno nuovo.